son le stelle. È una notte che gli uomini mettono fra le più belle. È un autotreno bianco e rosso, mi passa e vola, sembra una coccola. E sto cantando al chiaro di una luna che piano piano si sta spegnendo. E la felicità di un uomo che a casa una donna che l'aspetta è una stazione aperta tra gente che sta lavorando e gli altri stanno dormendo. In una notte che se ne sta andando, in una notte che va via, che va, che va e va. La notte se ne va, un casello, un fiume, una città. La notte se ne va, un grido senza fine, poi chissà. La notte se ne va. Sopra una collina verde che mi sta guardando. Per chi non dorme, per chi come te mi sta aspettando, per chi lavora senza sosta e dal sonno sta cadendo, tra i fuochi accesi nella notte di donne senza volto che stanno aspettando, e viene il giorno. 200 miglia senza sosta e una canzone un po' diversa che io sto cantando. Chissà perché voglio i tuoi fianchi, vorrei incontrarmi con i tuoi occhi, ma non li sto vedendo. E viene il giorno e una stella se ne va, tra le colline verdi se ne va, via, via e va. La notte se ne va, un casello, un fiume, una città. La notte se ne va, un grido senza fine, poi chissà.